Resta dunque la selva. E dov'è il fuoco? I mostri dove sono? Qualunque fia, non vedrà vacillar la gloria mia.